pensavo all'informazione, no? Che cosa fare sul tema dell'informazione? Anni fa mi trovai a scrivere una canzone, subito dopo, appena era accaduto un fatto importante, diciamo, nel mondo dell'informazione italiana, cioè la First Lady dell'epoca, famosissima First Lady, aveva mandato una lettera al quotidiano Repubblica in cui diceva che si era accorta, dopo un matrimonio, insomma decine e decine di anni, che il marito aveva qualche problema col genere femminile, specialmente se minorenne. Ora, che lei fosse animata finalmente da questo spirito, fu presa immediatamente come un leader di centrosinistra, no? È un attimo. Io mi trovai a scrivere questa canzone, perché, anzi, più che mi trovai a scrivere la canzone, mi trovai a pensare questo, cioè che dopo il pranzo di nozze ci stava il grande ballo a corte, e allora il re, per troppo ballare, girare, girare, ballare, volteggiare, insomma, alla regina divenne il male di pancia. Così allora tutti quanti i giornalisti riuniti vanno dal re, vanno dalla regina, perdonate, perché giustamente quella gli è venuto il male di pancia, e la regina dice: è stato il re che quello mi ha fatto girare, ballare e volteggiare, a me mi è venuto il male di pancia. Allora tutti quanti i giornalisti riuniti vanno dal re, e il re dice loro: ma giornalisti, ma non vi pare che il vostro re, che prima di essere il vostro re, lo sappiamo tutti, era il re di tutti quanti i ballerini, non è capace a far ballare la sua regina, quella si è mangiata qualcosa che l'ha fatta stare poco bene, e poi se la viene a pigliare con me. Così allora tutti quanti i giornalisti riuniti tornano dalla regina, e la regina dice loro: sì, è vero, cari giornalisti, ho mangiato una cosa che mi ha fatto stare poco bene, però quell'estate il re, che quando va in cucina con le cuoche, con le serve, con le cameriere, chi lo sa che ci mette dentro alla roba che mi mangio io. Così allora tutti quanti i giornalisti riuniti tornano dal re, e il re dice loro: giornalisti, mi meraviglio di voi, perché già l'avete venuto una volta, ma ve lo dico una seconda volta, ma vi pare mo che il vostro re, che prima di essere il vostro re era il re di tutti quanti i cuochi, non è capace a cucinare per la sua regina? Non ci credete, giornalisti? E fate così, mettetevi qui, rimanete a tavola con noi e vediamo se il vostro re è capace di cucinare oppure no. Così i giornalisti si mettono a sedere dall'altra parte di dove stanno i capi del popolo, di fianco al re, di fianco alla regina, e tutti quanti attorno ricominciano a ballare. Si forte nella sala, si sente già il proclama, ed ecco il re che entra e dà il braccio alla sua dama. Si alzano a gran voce le trombe del castello, la musica degli archi si unisce sul più bello. E allora ciambellano che si aprono le porte, e dopo i due sovrani entri anche la corte. Principi e marchesi, di nobili natali, di vario rango e grado, sono tutti commensali. Ma ecco l'improvviso, l'evento sconveniente, la dama si fa bianca e con una mano al ventre confessa al suo consorte di non poter far senza di un angolo qualunque per la sua incontinenza. Mia cara, non è il caso di farla proprio qui, capisco il tuo bisogno ma mi fermerei lì. Amore, io ti supplico, non farlo per pietà, sarebbe avvenimento di lesa maestà. E vabbè, cioè, si accuccia alla regina, di dietro ad una tenda, si accomoda al regale, si abbassa la mutanda, così da pieno sfogo a tutto il suo bisogno, e al fianco del suo uomo ritorna con contegno. Ma i balli e le gran volte, le gonne volteggiar, riempiono la sala di grande nobiltà, ma in viso ai presenti per tanto movimento si coglie un imbarazzo. Ammazza. Dovuto un po' di vento. Ed ecco un altro stimolo, la coglie impreparata, il volto si contorce a una dama assai garbata. Qualcuno maldicente pensò che la regina dicesse: dal mio regno per avere una latrina. Mia cara, un'altra volta il sovrano si informò: capisco il tuo bisogno ma rimedi non ne ho. Amore, io ti prego di andare un po' più là, fa almeno che io mantenga una certa dignità. E così perplessa e attonita la dama grande Elena cercò il luogo più consono al suo regio fondo schiena. Quando ebbe terminato tornò dai commensali, sorrise adesso libera da tutti quanti i mali. Ma al centro della sala un grande monumento se ne stava a regale su di un vassoio argento, e tutti lì a gridare con grande ilarità: evviva la regina e il dono che ci fa. E per chi non ha capito la piccola morale di questa breve storia dell'ordine sociale, io dico assaggi pure questa ghiottoneria, che il dolce offerto al popolo è una consentimento di senteria. Olé.